Gianni, ti arrivite voi. Dico Gianni, ti arrivite voi. Uco nauco, ti arrivite voi. Nia barabarani, ti arrivite voi. Nia Gianni, ti arrivite voi. Uco nauco, ti arrivite voi. Gianni, Gianni, mi tego, imbao, giao, y toto casa tamba. Salue, un buen giao, y toto casa tamba. Oni que me, un buen giao, y toto casa tamba. Watoto wakwako, nani atawalea? Familia kwako, nani atawalea? Zigo wakwako, nani ataulea? Yeme, Mungu wa njiao, kitoto kaanza tamba. Kawelo, Mungu wa njiao, kitoto kaanza tamba. Katambo, Mungu wa njiao, kitoto kaanza tamba. Yo, yo. naanza kulia. Kembe fungua njia, kitoto kaanza samba. Tatambo fungua njia, kitoto kaanza samba.